non lasciarmi qui, come un vecchio ceppo rosicchiato inutile, come vecchio mendicante curve debole, come foglia secca calpestata e fragile. Non lasciarmi qui, tu non lasciarmi qui, prigioniere in questa immensa solitudine, di malinconie, di sogni, delle tenebre, delle ombre, del passato, delle favole. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, nella pioggia di una sera senza tempo, con le lacrime negli occhi ed il silenzio, coi vestiti rattoppati ed il tormento. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, prigioniero in questo vecchio corpo inutile, dietro a un volto che non riconosco più, con le favole di sempre niente più. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui. Non lasciarmi qui a pregare il Dio per una tua parola, per uno sguardo, una carezza, un sorriso ancora, per averti qui vicino una volta sola. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, a combattere contro i miei mulini a vento, con in tasca solo sabbia e lo sgomento, con una vecchia tabacchiera e un sogno infranto. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, senza il tuo sorriso, le tue mani esili, senza i tuoi capelli e le tue labbra fragili, senza la tua voce, senza il tuo respiro. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, in questa mia odissea di suoni e di parole, in questo buco nero si perde la ragione, coi fantasmi e la mia anima che muore. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi. Non lasciarmi qui, prigioniero di una lacrima indelebile, prigioniero in questo corpo così fragile, prigioniero di diamante senza tempo. Tu non lasciarmi qui, non lasciarmi qui, non lasciarmi qui.